sul fango, segni in un passato che a volte rimpiango. Mi sto voltando, forse so dove sto andando, lasciando impronte, tracciando sentieri, voltarsi per ricordarsi com'eri ieri. Ma oggi ti appoggi sul solito fango umido e scomodo, cerco un terreno più solido. Le scarpe sporche, ma non sto rallentando. Scusa, ma so che sporcherò il tuo pavimento bianco. Almeno apprezza il fatto che ci sto provando. Siamo marci e qui non voglio restarci. Tra bracci finti, calci sugli stinchi, tra lacune, le orme sono lacune, alcune l'acqua le ha riempite. Ma dal fango è estratto anche pepite, certe sono sparite, certe immagini sbiadite. Siamo stanchi, passi pesanti, muoviti, se no il fango si trasforma in sabbie mobili. O schiatti, o dove ti aggrappi, o rubo un paio di stivali, se no poi qui ti impantani. Ci rimani, ti sporchi le mani, quanto fango, quintali, tanto sai che poi le lavi. Sto per affogare, ma sto cercando il mare per ricominciare. Sarò un uomo nuovo nello stesso luogo quando appenderò le mie scarpe usate al chiodo. Racconterò la mia storia vecchia, rimarrà la macchia. Il fango si è indurito e non si attacca. Zona Cristo, mi eclisso, è qui che scrivo, rido e mi rattristo. Forse resteranno, oh non lo so, non lo so, o forse spariranno. Spero di no. Sono le nostre orme sul fango. Sono le nostre orme sul fango. Forse resteranno, forse svaniranno, ma cosa rimarranno? Solo i boati di Capodanno. Mi convinco che son duro, ma in fondo queste palle che ne sanno. Sto diventando un tibetano nel mio rango, ma sai mi butto giù quando penso che è un decennio che cammino sul fango e mangio calce fermentata. Aspetto la fortuna, la fermata e sporco sempre dove tira il vento. Ma poi ci pensi bene dove va a parare. Troppi maestri, ma nessuno sa insegnare. Tanto è vano, mi dici strano, quando poi in seconda elementare già volevo ingravidare. Troppo piccolo per lavorare, troppo grande per casseggiare, ma zero voglia di studiare. Ho tentato l'attentato troppe volte alla matrice, quando ho trovato nel fango la mia musa ispiratrice. Ma poi mi dice, porta rispetto per chi lava la tua merda in lavatrice. Ma sai socio, mi sono scocciato il cazzo di passare la mia vita come vice. Come vice qua la legge, perché diventi lupo se non resti col tuo grece. C'ho la tentazione, prima o poi ci esco, anche se i cristiani sai mi guardano in cagnesco. Le parole da pastore io non parlo tedesco. Ho trovato il freddo nell'estate, perché siamo cresciuti nelle perversioni delle bastonate. Accendi la luce, perché il cielo ormai si è spento. Ho messo il fango, le mie mani e la mia storia sul cemento. Forse resteranno, oh non lo so, non lo so, o forse spariranno. Spero di no. Sono le